6B. Ascolta e rispondi. Questo cellulare è di Maria e Piero? Sì, è il loro. Questo è l'ombrello di Paola e Mario? Sì, è il loro. Quella è la macchina dei signori Rossi? Sì, è la loro. Questa è l'agenda dei signori Bianchi? Sì, è la loro. Questi sono i libri dei ragazzi? Sì, sono i loro. Questi sono gli indirizzi di Giovanni e Matteo? Sì, sono i loro. Queste sono le cose dei bambini? Sì, sono le loro. Quelle sono le bambole delle bambine? Sì. Sono le loro.